Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Scoperta una nuova via d'accesso di SARS-CoV-2, si tratta di una proteina, la neuropilina, che funge da serratura permettendo al virus di arrivare alle cellule dell'organismo. A Obiettivo Salute il professor Giuseppe Balistrieri, professore di virologia molecolare dell'Università di Helsinki, uno degli autori del team che ha effettuato la scoperta. Professor Balistrieri, buongiorno. Ci racconta che cosa avete scoperto? Buongiorno a voi, grazie. Allora, abbiamo scoperto, con nostra sorpresa, che il virus entra nelle nostre cellule, nelle cellule quindi delle vie respiratorie, e che poi si diffonde da lì nei vari tessuti, grazie a un secondo recettore. Il primo era noto, si chiama ACE2, è una proteina sulla superficie esterna delle cellule. Il secondo, che abbiamo scoperto di recente, si chiama neuropilina. E la parte interessante di questa scoperta è che il modo in cui questo virus si lega alla neuropilina è grazie a una piccola sequenza esposta nella superficie del virus, che è presente anche in tantissimi altri virus umani molto pericolosi. Quindi un codice in comune, una chiave in comune che tanti virus sembrano avere, e che secondo la nostra ipotesi potrebbe, utilizzando questo recettore, la neuropilina, dare accesso a tanti tessuti all'interno del corpo umano e quindi aumentare la virulenza, il potenziale patogenico di questi virus. Professore, quali prospettive apre la vostra scoperta per una cura capace di contrastare l'infezione? In questo momento tutte le nostre risorse sono concentrate nello sviluppo di farmaci nuovi, delle molecole che abbiamo ingegnerizzato in laboratorio, e lo scopo di queste molecole è di bloccare l'interazione tra il virus e la neuropilina. E i risultati preclinici in laboratorio sono straordinari al momento, e siamo tutti sorpresi con piacere di come queste nuove molecole funzionino bene e riescano a bloccare l'entrata del virus nelle cellule umane. Nei prossimi mesi dovremmo avere la conferma del potenziale medico di queste medicine. Ecco. Grazie professor Balistrieri per essere stato con noi, complimenti, buona ricerca, speriamo di sentirci presto con buone notizie. Grazie a voi, arrivederci. Per oggi è tutto, vi ricordo che continuano sulle pagine di Obiettivo Salute le nostre interviste video questa settimana dedicate al pianeta diabete, dallo stile di vita alla ricerca. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it